Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. We reject the president elect! We reject the president elect! We reject the president elect! The people united will never be defeated! E queste, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le proteste anti-Trump. Rigettiamo il nuovo presidente, dicono in almeno 25 grandi città americane, con l'intervento della polizia. Almeno 100 arresti ci sono stati un po' in tutti gli stati degli Stati Uniti. E fra le altre cose è bloccato il sito, pensate, dell'immigrazione canadese per i troppi contatti da parte degli americani che vogliono fuggire dopo l'elezione di Trump verso il Canada. Oggi, tra l'altro, Donald Trump, il nuovo presidente, ha avuto il primo incontro con il presidente uscente Obama, e resta un mistero perché il Wall Street Journal a un certo punto ha detto, è uscita questa agenzia in cui rivelava che la coppia Obama-Michelle ha rifiutato la foto con Donald Trump e la moglie Melania. Poi invece è arrivata una smentita della Casa Bianca. Quindi poi, fra le altre cose, per questo, per molti altri motivi più seri, ci collegheremo con gli Stati Uniti e poi cercheremo anche di capire quali possono essere gli scenari dalle promesse, dalle scelte di Trump interne. Per esempio, ha già annunciato che manterrà la promessa di abolire Obamacare, cioè quella riforma del sistema sanitario che Obama aveva fatto, dando un pochino di sanità pubblica che negli Stati Uniti finora non è mai esistita. E poi vediamo invece quali possono essere anche il riposizionamento degli Stati Uniti rispetto allo scenario internazionale. Per le vostre osservazioni, i vostri messaggi, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi, SMS e WhatsApp, che è il 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ma prima di approfondire i vari argomenti, un riassunto, come sempre, della giornata. Stati Uniti, Donald Trump ha ricevuto la Casa Bianca da Obama, dice di lui è una gran brava persona. Obama definisce il colloquio eccellente e smentisce che lui e Michelle abbiano rifiutato le foto con la nuova coppia presidenziale. Intanto in molte città proteste contro il neoeletto. Russia, Mosca ammette contatti con il team di Trump in campagna elettorale. Per quanto riguarda Israele, un consigliere di Trump assicura le colonie non impediscono la pace. Referendum respinto e ricorso di Onida sul quesito perché non lede la libertà di voto. Egitto, rilasciati due pescherecci sequestrati, l'armatore conferma, sono stati liberati. Mezzogiorno, dopo 7 anni, torna a crescere il PIL al sud, più 1% nel 2015. Ennesimo femminicidio, questa volta a Sassari, un uomo ha ucciso la moglie dandole fuoco perché voleva lasciarlo, poi ha confessato. Si chiude il caso Calvi, si trattò probabilmente di omicidio, ma gli elementi non costituiscono la prova, archiviata l'inchiesta, ma secondo il GIP è ipotizzabile un ruolo del Vaticano, della P2 e di Cosa Nostra. La morte di Umberto Veronesi, l'omaggio dei milanesi alla Camera Ardente a Milano oggi, il figlio rivela alla fine non ha voluto le cure. Calcio, l'Inter vara l'era Pioli, presentando ufficialmente il nuovo tecnico che prende il posto dell'esonerato De Boer. Partiamo quindi dagli Stati Uniti. Dopo la vittoria di Donald Trump, ieri sera, nella notte, proteste e disordini in tutti gli stati contro il neoeletto, manifestazioni così imponenti e diffuse non si erano mai viste in America dopo le presidenziali. 100 arresti nelle grandi città americane, a Manhattan si sono radunati in migliaia sfilando fino alla blindatissima Trump Tower, a Oakland le proteste più dure con il lancio di Molotov e 3 agenti feriti. Parte intanto il periodo di transizione, Trump prepara la squadra di governo e oggi è stato ricevuto alla Casa Bianca dal presidente uscente Obama. Trump ha detto di Obama che è una gran brava persona, Obama ha parlato di un incontro eccellente, ma come vi dicevo resta questo mistero sulla foto tra le due coppie presidenziali. Il Wall Street Journal prima parla di un rifiuto da parte di Barack e Michelle, ma dalla Casa Bianca arriva la smentita. Non è soltanto una questione così di colore, ma potrebbe confermare l'imbarazzo, insomma, dopo gli attacchi reciproci nella campagna elettorale. Ma sentiamo Obama che dice a Trump il tuo successo sarà il successo di tutti, e poi Trump che dice è un grande onore incontrare Barack. Now we're going to want to do everything we can to help you succeed, because if you succeed, then the country succeeds. Mr. President, it was a great honor being with you and I look forward to being with you many, many more times in the future. Thank you, sir. Poi, come vi dicevo, ci collegheremo col corrispondente dagli Stati Uniti e intanto queste sono le reazioni internazionali. Mosca spera in un miglioramento delle relazioni. Il giorno dopo una delle elezioni più drammatiche nella storia americana non si esauriscono le reazioni a livello internazionale. La Russia è ancora al centro, considerato il controverso flirt Trump-Putin prima delle presidenziali. Mosca spera in un miglioramento dei rapporti con gli Stati Uniti, dice il ministro degli esteri Lavrov, conferma il premier Medvedev. Mosca è pronta a collaborare chiudendo la triste pagina scritta negli ultimi anni, dice, ribadendo la sensazione che Putin cerchi una netta discontinuità a Washington, tanto che durante la campagna elettorale per le presidenziali americane ci sono stati contatti tra la Russia e i membri del team di Donald Trump, così ha ammesso il viceministro Sergei Ryabkov. Felice anche un altro uomo forte, il presidente turco Erdogan, che si aspetta un ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra i due paesi. Da Trump a rassicurazioni a Israele, uno dei suoi più stretti consiglieri, Jason Greenblatt, ha detto che il presidente eletto non vede negli insediamenti un ostacolo alla pace. Cautela dal Messico, dove il presidente Nieto attende un vertice che avrà ovviamente il problema immigrazione al centro, e dalla Cina minacciata di pesanti dazi dallo stesso Trump. Business as usual la fa filtrare Pechino. Tuona la Corea del Nord, gli Stati Uniti devono trattare Pyongyang alla pari da potenza nucleare. Curiosamente un messaggio analogo lo lancia il presidente della Commissione Europea Juncker. Vogliamo e dobbiamo lavorare con gli Stati Uniti, ma dobbiamo farlo alla pari. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. Il giorno dopo l'elezione di Trump, giornata contrastata nei mercati dopo un ottimo avvio delle borse asiatiche. Il crollo delle utility penalizza l'Europa, che per metà seduta ha beneficiato del rally di Wall Street e delle borse asiatiche. La peggiore è stata Londra, -1%, mentre Milano ha chiuso invariata. Dopo la vittoria di Donald Trump c'è incertezza sulle prossime mosse della Fed, che potrebbe rinviare il rialzo dei tassi previsto a dicembre, ma poi accelerare con la stretta monetaria, e a pagare dazio sarebbero soprattutto i business regolamentati come elettricità e acqua. Giù quindi le utility anche a Wall Street, dove soffrono tecnologici e TLC in vista di una chiusura degli States al commercio estero. Vanno bene, come alla vigilia, costruzioni, difesa, farmaceutici, banche. Sulle promesse di tagli alle tasse, investimenti pubblici, più inflazione, anche se le modalità di realizzazione della nuova politica economica dell'era Trump sono ancora tutte da definire. Il Dow Jones intanto ne beneficia, segnando la quarta seduta consecutiva in crescita, e Standard & Poor's conferma il suo giudizio sugli Stati Uniti. Livia Zancanera, Radio 24, il Sole 24 Ore. E adesso passiamo alla politica italiana, parliamo di referendum. Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso del costituzionalista Valerio Onida, che valuta un eventuale ricorso in Cassazione. Nessuna lesione del diritto di voto, nessun obbligo di parcellizzare il quesito. Per il Tribunale di Milano il quesito referendario è dunque formulato in maniera legittima. Il giudice civile Loretta Dorigo respinge infatti due ricorsi presentati dal costituzionalista Valerio Onida e da un gruppo di legali contro la consultazione popolare. Secondo i ricorrenti, sottoporre agli elettori l'intero complesso di modifiche costituzionali mediante un unico quesito violava in modo grave la libertà di voto. Ma invece la stessa Costituzione spiega alla giudice a connotare l'oggetto del referendum come unitario e non scomponibile. Ricorso respinto dunque e scongiurata ogni ipotesi di rinvio della consultazione. E intanto in vista del 4 dicembre continua la mobilitazione dei due fronti. Il referendum, dice Renzi, non sarà l'equivalente della Brexit o della vittoria di Trump. È un voto contro la vecchia guardia che ha fallito. Di opposto avviso il leader della Lega Salvini, secondo il quale, come per la Brexit e come per Trump, gli italiani spazzeranno via quello che è ormai passato. Da Forza Italia invece Brunetta ribadisce: Onida aveva ragione, ma bene il ricorso respinto, così si vota il 4 dicembre e Renzi verrà sconfitto. Mentre Grillo dal blog accusa il PD un ladro di democrazia e la riforma una schiforma. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Una buona notizia adesso per il Sud Italia: si ferma dopo 7 anni il calo del PIL, del prodotto interno lordo del Mezzogiorno. Secondo i dati Svimez, nel 2005 il PIL è cresciuto al Sud dell'1%, quindi un più 0,3% rispetto al resto del paese, ma dal 2007 il PIL era calato però del 12,3%, doppio della flessione al centro-nord. Dall'estero, nuovo orrore targato ISIS a sud di Mosul, capitale irachena del sedicente Califfato Nero, sottoposta a una vasta offensiva delle forze governative lanciata lo scorso 17 ottobre. Ad Amam al-Alil, località una ventina di chilometri dalla periferia meridionale di Mosul, liberata nei giorni scorsi, è stata scoperta una fossa comune con dentro i cadaveri di circa 400 abitanti del distretto. E l'UNICEF denuncia che a Mosul vivono ancora 600.000 bambini sotto assedio. Più tardi ci collegheremo direttamente con l'inviato speciale del Sole 24 Ore in Iraq. Intanto sono stati rilasciati dalle autorità egiziane i due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati nella notte scorsa dalla Marina Militare egiziana e sono partiti dal porto di Alessandria. 14 in tutto le persone a bordo condotte nella notte nel porto appunto di Alessandria d'Egitto. Roberta Pellegatta ha raggiunto Giovanni Tumbiolo, il presidente del distretto produttivo della pesca del quale fanno parte le due imbarcazioni. I pescatori sono già tutti all'opera, sono in navigazione in questo momento verso le zone di pesca. Sono stati trattati bene, tra l'altro, quindi non c'è stato nessun incidente, non è stata esercitata nessuna violenza. Lei ha detto che questa liberazione è stata fatta grazie insomma a tutta la filiera istituzionale. Assolutamente, questo è un bell'esempio di collaborazione fra istituzioni a livello regionale, nazionale e soprattutto il comando delle capitanerie di porto, la nostra diplomazia. Tra l'altro uno di questi due pescherecci aveva già subito un sequestro in passato. Sì, tutti e due avevano subito sequestri in passato, uno in Libia e uno proprio in Egitto, ma tutti i nostri pescherecci, sa, proprio perché non c'è stata chiarezza sul piano dell'uso delle acque, sul piano del diritto internazionale del mare. Chiarezza che ancora non c'è. Chiarezza che, come è del tutto evidente, ancora non c'è. Ed è difficile che ci sia, perché in alcuni casi la definizione, la delimitazione delle acque non è semplice. E quindi l'unica strada che ci rimane è quella di trovare forme di collaborazione. Ma questo non solo per pescare più in sicurezza, ma soprattutto per proteggere insieme il nostro mare Mediterraneo. Ora la cronaca italiana con l'ennesimo femminicidio. Dobbiamo sempre tenere aggiornato questo bollettino che non manca mai. Questa volta è successo a Sassari. Un uomo ha ucciso la moglie dandole fuoco. La vittima, 66 anni, voleva lasciarlo. Nicola Amado ha reagito prendendola a pugni e calci, gridando: o con me o con nessun altro, meglio morta. E poi bruciandola viva. Quindi ha chiamato la figlia e la polizia e ha confessato. Il caso Calvi, l'inchiesta bis della Procura di Roma sull'omicidio di Roberto Calvi, l'ex presidente del Banco Ambrosiano trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra il 18 giugno 1982, è stata archiviata. Il GIP in sostanza ha preso atto che, malgrado tutte le risultanze portassero a configurare l'omicidio del banchiere sotto forma di suicidio simulato, non è stato però possibile dare il valore di prova agli elementi raccolti, ma secondo il GIP è ipotizzabile fra l'altro un ruolo del Vaticano, della P2 e di Cosa Nostra. L'omaggio adesso a Umberto Veronesi alla Camera Ardente a Palazzo Marino a Milano. Il figlio dice alla fine non ha voluto ulteriori cure. Era il medico delle donne ancor più degli uomini, sì, amava le donne in un modo... Io sono sempre stata in cura da lui e mi ha aiutato molto. Umberto Veronesi era il medico delle donne, le ha curate nel profondo perché ha rispettato la femminilità e la bellezza. Per questo a salutarlo davanti alla Camera Ardente hanno sfilato soprattutto loro. Molte ex pazienti, donne che sono state operate al seno con la tecnica conservativa introdotta da lui, la quadrectomia. Ogni tanto lungo la fila scatta un abbraccio per accogliere il racconto e le lacrime di chi è sopravvissuto al cancro. Ci ho ricordato tutti gli anni, tutte le visite passate da lui e tutte le speranze che mi ha dato quando ho avuto il carcinoma. Ho usufruito della quadrectomia. Scorrono tra la gente anche i volti più noti del mondo dello spettacolo e della politica. Arriva a rendere omaggio al professor Veronesi anche il ministro della salute Lorenzin. Rendere omaggio ad un ministro della salute come ministro della salute, rendere omaggio a un grande scienziato e anche a tutte le cose che lui ha cominciato e che dobbiamo portare avanti. Penso alla grande battaglia per la prevenzione. E poi ancora il tema dell'eutanasia, racconta così il figlio Alberto. Fondo lui, che ha sempre anche predicato l'eutanasia, cioè il diritto di non soffrire, lui in qualche modo non ha voluto essere curato alla fine. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere il calcio, mentre la nazionale prepara la doppia sfida con il Liechtenstein a sabato e martedì sera l'amichevole a Milano, l'Inter vara l'era Pioli presentando ufficialmente il tecnico che prende il posto dell'esonerato De Boer sulla panchina nero-azzurra. L'obiettivo, dice Pioli, la qualificazione alla Champions. E con questo obiettivo direi che la giornata è stata riassunta sinora. Adesso, come sempre, dopo la viabilità cominceremo ad affrontare alcuni temi in particolare e diciamo ci focalizzeremo soprattutto sulla situazione degli Stati Uniti. Intanto i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al numero 349-238-6666, a proposito per esempio di cosa si prospetta adesso negli Stati Uniti, cosa ci può aspettare da Trump. Per esempio Ilaria scrive: meno politically correct e politiche concrete a sostegno delle classi medio-basse, vere vittime dell'amministrazione Obama, vedi Obamacare, anche se l'Obamacare doveva essere a favore, diciamo, delle persone più disagiate, come piccolo spicchio di sanità pubblica. Francesco dice: innanzitutto una politica estera filo israeliana e filo russa che rappresenterebbe il migliore equilibrio possibile. Ci sentiamo tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. In 60 minuti praticamente il quadro aggiornato della giornata. Ne abbiamo parlato come sempre all'inizio delle notizie più importanti e adesso cominciamo invece a entrare nel cuore di alcuni argomenti particolari. Roberto Giordano sempre con voi, e i vostri due canali per interagire qui con Effetto Notte sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per i messaggi e i WhatsApp, che è 349-238-6666. Per esempio Giacomo da Bergamo dice: certo che questi sinistroidi accettano le democrazie solo quando vincono loro, a proposito delle ferventi proteste in vari stati degli Stati Uniti, almeno in 25 grandi città, anche se bisogna dire, Giacomo, che se avesse perso Trump, col fatto che continuava a dire non so se accetterò il risultato, probabilmente le proteste sarebbero state molto più diffuse e anche più pesanti. Comunque, tra poco ci collegheremo proprio con gli Stati Uniti. Adesso, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, vi ricordo comunque i titoli principali. Primo incontro oggi Obama-Trump, un colloquio eccellente, dice Obama, ma le differenze restano, e salta forse, perché non è ancora chiaro, questa photo opportunity, come si chiama, tra le due coppie presidenziali. Intanto proteste in piazza nelle varie città contro il neoeletto presidente. E poi Wall Street che apre forte ma poi rallenta, e anche l'Europa peggiora poi in chiusura con Milano che chiude piatta a 0,03%. Mosca ammette contatti con il team di Trump durante la campagna elettorale, e un consigliere del tycoon dice, per quanto riguarda Israele, le colonie non impediscono la pace. Referendum respinto, il ricorso di Onida sul quesito non lede la libertà di voto, così dice il giudice in questa sentenza. Onida però intende fare ricorso alla Cassazione. E poi Veronesi, l'omaggio a Umberto Veronesi, il figlio rivela oggi durante la Camera Ardente, non ha voluto essere curato, se n'è andato in maniera naturale. E poi il PIL del Sud Italia dopo 7 anni torna a crescere, più 1% nel 2015. Si chiude il caso Calvi, fu omicidio probabilmente, ma gli elementi non fanno una prova, quindi è stata archiviata l'inchiesta, con l'ipotesi di un ruolo del Vaticano, della P2 e di Cosa Nostra. Allora, colleghiamoci direttamente con gli Stati Uniti, con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco. Ciao. Allora, abbiamo visto, abbiamo ricevuto queste notizie che almeno in 25 grandi città americane c'è stata questa vivace protesta nei confronti di Trump, le proteste che hanno attraversato nelle ultime ore tutte le grandi città americane, ci sono stati diversi arresti, la polizia che è intervenuta. Questo, diceva prima un ascoltatore, i sinistroidi non accettano solo quando non accettano la democrazia se non quando hanno vinto loro, però dicevo probabilmente, ma qui siamo sulle ipotesi con Trump che diceva più volte se non so se accettare l'esito del risultato, non so se lo accetterò, probabilmente le proteste sarebbero state più pesanti. Però questo ci fa dire una cosa. Intanto, Marco, che tipo di persone sono quelle che protestavano? Ma soprattutto chiaramente giovani, soprattutto e sicuramente come abbastanza, diciamo, probabilmente scontato, tanti e attivisti della sinistra, dei diritti civili, che sono preoccupati per alcune delle posizioni più estreme prese da Trump durante la campagna elettorale, quindi fanno fatica a riconciliare. Così a immaginare una riconciliazione con simili posizioni. Marco, fra l'altro vorrei anche dire questa cosa, chiaramente protestavano perché avrebbero preferito Hillary Clinton dal loro punto di vista, e allora diciamo che questo, anche se i motivi sono stati vari per cui ha perso Hillary Clinton, però sicuramente si può dire che non è ancora l'America, come molti altri paesi, un paese per donne, perché per esempio al Senato, dati di ieri, sono più o meno le rappresentanti donne al Senato sono 22. E poi nelle posizioni occupate nella classifica dell'Iter Parliamentary Union sulle presenze femminili nei parlamenti nel mondo, la classifica mondiale, gli Stati Uniti, che sono il paese leader delle democrazie occidentali, è al 97esimo posto su 193 paesi. Prima degli Stati Uniti addirittura per rappresentanza femminile nei parlamenti vari c'è l'Arabia, la Grecia, il Kenya, c'è anche l'Italia al 42esimo posto, e poi ci sono anche la Tunisia, la Macedonia, il Burundi, il Ruanda. Quindi, come diceva oggi per esempio Antonio Stella sul Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, mentre Trump, secondo molti, è riuscito a fare questa rimonta sul Partito Democratico, sull'establishment, sulla grande finanza e i forti poteri, Hillary sicuramente era chiamata alla rimonta molto più difficoltosa su una storia secolare, no, che non riesce a vedere le donne in posizione numerosa, in posizione apicale, diciamo. Tra l'altro, ancora due dati: su 50 stati americani, solo 6 hanno una donna come governatore, e quelli in cui quelli in cui in due secoli di vita democratica non hanno mai avuto una donna ai vertici di questi stati sono 23, quindi quasi la metà. Senti Marco, ti risulta che ci sia stato un boom di ricerche per scappare dall'America verso il Canada, che sia bloccato il sito per l'immigrazione canadese? Ma diciamo così, tra le tante leggende, diciamo, forse con un fondo di verità, che si sono diffuse nel corso della notte elettorale, c'è stata anche questa, che ha visto probabilmente cercare così alcuni, forse per l'attenzione, così alcuni gruppi di americani. Così, Marco, ti sentiamo molto male, non ti cerca una posizione in cui ti possiamo sentire chiaramente? Purtroppo. Sì. Mi sentite? Ora sì, ti sentiamo. Non sarai mica nella Trump Tower, anche tu? No, non siamo ancora rinchiusi nella Trump Tower. Come dicevo, cercavo meglio di dire, diciamo, tra le così le leggende con un fondo di verità che si sono diffuse durante la notte elettorale, e che appunto il fondo di verità è che sicuramente anche per scaricare la tensione sul risultato e su un esito inviso appunto a una parte del paese, ha visto giovani e non solo così cercare con una certa assiduità informazioni sul Canada e su eventuali modi per recarsi o sfuggire così alla Trump-Silvania. Trump-Silvania. Marco, senti, ma oggi c'è stato questo primo importante incontro, no, tra il presidente neoeletto e il presidente uscente, quindi tra Trump e Obama. Obama ha parlato di un incontro eccellente. Trump, tra una delle varie dichiarazioni, ha detto che Obama è una gran brava persona. Quindi sembra che l'incontro sia andato bene. Obama gli ha anche detto cercheremo di fare tutto il possibile per aiutarlo, Trump, perché il suo successo sarà il successo di tutti gli americani. Però resta questo mistero di questa photo opportunity, cioè della foto che di solito fanno, no, i presidenti uscenti e i presidenti entranti in coppia con il proprio compagno, compagna, moglie, eccetera. E secondo il Wall Street Journal, un'agenzia di in serata diceva che sono sfuggiti la coppia Obama-Michelle a questa foto, invece poi dalla Casa Bianca è arrivata la smentita. Sì, diciamo, c'è stato questo piccolo giallo, poi smentito, e chissà, sicuramente, diciamo, è difficile immaginare proprio un ottimo sangue, diciamo, fra le due famiglie. Ricordiamo che appunto Obama si è speso molto per cercare di evitare le Trump, e che Trump è stato tra i grandi assalitori di Obama anche prima in modo molto personale, anche prima della sua campagna presidenziale, si è messo alla guida di fatto, diciamo, del famoso Birther Movement, no, del movimento che voleva che sosteneva là di ogni prova contraria che che Obama non sarebbe nato negli Stati Uniti e quindi non sarebbe stato un legittimo presidente, chiaramente un movimento che aveva toni razzisti neanche tanto nascosti. Quindi diciamo, immaginare che ci sia proprio buon sangue così è un po' difficile. Ma detto questo, sì. Però è sicuramente l'incontro è stato estremamente corretto, l'impegno reciproco ha funzionato per Marco, ti sentiamo proprio male. Senti, fra le altre cose, c'è stato l'annuncio poco fa di Trump, almeno dalle agenzie, che diceva tra le prime promesse che manterrò sarà quella di abolire l'Obamacare. Difficile, una promessa sicuramente molto ambiziosa, tutta dimostrata. Era, Marco, la riforma del sistema sanitario, no? Da parte di Obama. Però mi sa che Marco Valsania lo abbiamo perso e d'altronde con gli Stati Uniti non è sempre facile il collegamento, però noi restiamo sugli Stati Uniti e ne parliamo con Germano Dottori, che è docente di studi strategici all'Università Lewis. Buonasera, professor Dottori. Buonasera a voi, molto interessanti le cose che ho sentito, ma mi trovano francamente molto poco d'accordo. Ecco, dirò anche l'importante perché. È che le abbia sentite bene, perché sì, è stato un po' difficile, devo dire, ma stasera. Obiettivamente vabbè, sono giorni in cui i telefoni vengono utilizzati tantissimo, o per prelevare informazioni, oppure perché la gente chiede opinioni, eccetera, magari si scaricano anche presto. Ah, non c'è dello comunque spionaggio, volevo... avevo pensato questo, magari, no, dello spionaggio, professor Dottore. Volevo fare qualche annotazione. Intanto il discorso delle donne, tutto vero quello che dite, che c'è una presenza piuttosto ridotta delle donne nella politica americana, ma questo non dipende dal fatto che la cultura americana è sessista, perché non lo è affatto, e lo abbiamo anche visto in molti dei dibattiti che sono sorti intorno alla candidatura di Trump. E lo stesso Trump, in realtà, al di là di tutto, viene da New York ed è permeato di valori che in parte ha dovuto nascondere per poter prendere dei voti nell'America profonda rurale. Il discorso della rappresentanza delle donne in America in politica risente piuttosto di un'altra faccenda, che per raggiungere livelli molto alti occorre essere molto ricchi, occorre disporre di grandi capitali, e le donne è più difficile che posseggano le risorse che sono indispensabili per intraprendere una carriera politica. Una carriera politica che ti conduce al Congresso costa veramente una barca di soldi, e praticamente è una cosa che si possono permettere soltanto famiglie di grande ricchezza, molto facoltose, ed è difficile che quando queste famiglie esprimono una persona che entra in politica lo facciano con una donna. Quindi è una base economica, ma comunque un elemento sessista. Tutto questo è il fatto che in America non esiste il finanziamento pubblico della politica, e tutto questo ci deve far riflettere, perché noi viviamo in un paese che sta abbandonando il modello del finanziamento pubblico della politica, e temo che anche da noi, mano a mano, la politica potrà diventare un fatto solo di ricchi, lei dice. Esatto, un'attività accessibile soltanto a delle persone estremamente abbienti. Professor Dottore, invece, per quanto riguarda gli Stati Uniti e quindi la vittoria di Trump, le prime reazioni internazionali sono state quelle da parte dell'Unione Europea di chiedere un ripristino di legami forti. Angela Merkel assicura che il partenariato con gli Stati Uniti rimane la pietra angolare. Putin ha chiesto di ricostruire rapporti con l'America e tra l'altro ha rivelato oggi che c'erano stati contatti durante la campagna elettorale con lo staff di Trump. Questo cosa significa, per esempio, nel riposizionamento dei rapporti internazionali? Allora, io ritengo da molto tempo che Trump sia portatore di una visione di politica estera che non è in vera soluzione di continuità rispetto a quella di Obama, ma ne accentua alcune caratteristiche e tendenze di fondo. È Obama che ha introdotto per primo il paradigma del leading from behind, guidare dalle retrovie, cioè ridurre l'esposizione in prima linea degli Stati Uniti. Trump, secondo me, si accinge a fare passi ulteriori in questa direzione per poter concentrare la sua attenzione nella ricostruzione dell'America manifatturiera, che ha patito moltissimo gli effetti della globalizzazione. Ovviamente, da buon imprenditore, Trump non vuole lasciare il mondo nel caos, quindi il prerequisito per un ritorno a casa degli Stati Uniti, cioè per condurre una politica relativamente isolazionistica, è di trovare dei partner che aiutino l'America o cooperino con l'America in un'azione di stabilizzazione che deve essere prima politica e soltanto eccezionalmente militare. Di qui l'importanza di un accordo di sistema con la Federazione Russa. Un accordo di sistema che Trump sicuramente negozierà molto duramente perché sia funzionale agli interessi degli Stati Uniti in primo luogo, ma che dovrà anche avere delle componenti che rendano questo accordo, questa intesa attraente anche per la Federazione Russa. Vedremo fin dai primi passi che verranno mossi in Medio Oriente come tutto questo potrà prendere forma. Per esempio in Siria, o anche in Israele. Io ho la netta impressione che i due pivot della prossima politica medio orientale di Trump saranno Israele e proprio la Russia, che tra parentesi in questo ultimo anno e mezzo in cui i russi sono presenti in Siria sono riusciti a trovare un modus operandi abbastanza interessante. Questo ovviamente è tutto di là da venire. L'altra cosa che giudico estremamente importante da dire è che proprio l'idea di Trump di accentuare il ritorno a casa degli Stati Uniti mette noi europei in una posizione molto interessante, perché ci responsabilizza, ci restituisce della sovranità di fatto, di cui dovremmo essere, dovremmo dimostrarci in qualche modo degni. Siamo di fronte a una sfida importante, una sfida che ci richiede di dimostrare maturità e capacità di pensare, se non proprio il mondo, almeno la regione di questo pianeta di nostro più immediato interesse. E già sarebbe una gran cosa riuscirci. Grazie professor Germano Dottori. Grazie. Buonasera. Grazie, buonasera e buona continuazione. Dunque, che guarda caso in Italia i ricchi sono tutti di sinistra, dice un ascoltatore a proposito dell'osservazione che faceva il professore. Un altro scrive il contrario, dice ma se abbiamo avuto Berlusconi per 20 anni, a proposito del finanziamento pubblico ai partiti oppure di essere facoltosi per poter raggiungere posizioni apicali nella politica. Ma questo è un altro discorso, adesso ci fermiamo qui momentaneamente. Voi continuate con i vostri messaggi, le vostre osservazioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure con SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato lungamente di Stati Uniti, adesso nello spazio europeo anche parleremo di un altro aspetto che è un po' sotto i riflettori adesso che è stato eletto come nuovo presidente Trump. Intanto i vostri messaggi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, per esempio. Claudio dice: mi aspetto dalla presidenza Trump un accordo con la Russia per risolvere la questione siriana. Per quanto riguarda le proteste, sostengo che la democrazia deve essere rispettata chiunque vinca. Poi Mon da Torino dice: con l'amministrazione Trump ci aspettiamo soltanto xenofobia, razzismo, eccetera, eccetera. Mentre Emanuele dice: spero che la vittoria di Trump sia la sveglia di questo lunghissimo incubo fatto di finanza, esportazione della democrazia, suon di bombe, riduzione delle libertà personali con la scusa, sottolineo scusa, dice, del terrorismo e buonismo orwelliano. Speriamo che questa sveglia arrivi pure da questo lato dell'oceano. Vi ricordo molto velocemente quali sono le notizie più importanti della giornata. Stati Uniti, appunto, Donald Trump ha ricevuto la Casa Bianca da Obama, dice di lui una gran brava persona. Obama definisce il colloquio eccellente e smentisce che lui e Michelle abbiano rifiutato la foto con la nuova coppia presidenziale. Intanto in molte città proteste contro il neoeletto. Russia, Mosca ammette contatti con il team di Trump in campagna elettorale. Per quanto riguarda Israele, un consigliere di Trump assicura le colonie non impediscono la pace. Referendum è respinto il ricorso di Onida sul quesito perché non lede la libertà di voto, ed Egitto, rilasciati due pescherecci sequestrati, l'armatore conferma sono stati liberati. Europa 24 notte. L'accordo di Parigi sul clima è a rischio con Trump, l'Unione Europea vigila sul presidente eletto. È passata meno di una settimana da quando il commissario all'energia europeo Maros Šefčovič salutava l'entrata in vigore dell'accordo sul clima di Parigi dello scorso anno. Un processo rapido, sottolineava, che mostra quanto l'intero mondo condivida l'urgenza di combattere il cambiamento climatico. Donald Trump allora era ancora candidato alla presidenza degli Stati Uniti e dei due era anche quello con minori chance di vittoria. Un negazionista dei cambiamenti climatici, poco incline ad ascoltare la voce della scienza, l'accusa di Scientific American. We're going to cancel the Paris Climate Agreement. E con la dichiarata intenzione di traghettare gli Stati Uniti fuori dall'intesa di Parigi e tagliare i finanziamenti ai programmi di ricerca sul riscaldamento globale. La sua elezione ha quindi gettato nello sconforto delegati e partecipanti della conferenza sul clima di quest'anno, la COP22, che è in corso a Marrakech. We're calling on the new president Donald Trump to switch sides, prepare for unprecedented civil disobedience, direct action. Con gli americani ancora guidati da John Kerry, chiusi in uno stretto no comment, e gli europei che possono solo sperar bene. Giovanni La Via è presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Speriamo che adesso stia più attento e che soprattutto gli Stati Uniti mantengano gli impegni che hanno preso sotto l'amministrazione Obama, perché è fondamentale che i grandi paesi che emettono CO2, i grandi paesi inquinatori, facciano la loro parte, altrimenti lo sforzo degli altri sarà sostanzialmente inutile. Ma Trump ha modo di rimangiarsi, per così dire, gli impegni presi sotto la presidenza di Obama? Sicuramente potrebbe ostacolarne l'avanzamento. Perché evidentemente nei mesi che verranno, negli anni che verranno, l'implementazione delle misure, il controllo da parte degli altri paesi, passano tutte a procedure che dovranno essere messe a punto, e quindi in questo processo la nuova amministrazione americana vedremo che atteggiamento assumerà. In questo contesto quindi adesso bisogna vigilare sull'attuazione degli accordi di Parigi e bisognerà vedere quali saranno le prime mosse del governo americano quando questo si insedierà e prenderà in mano anche il dossier ambientale. Questa incertezza non è un dettaglio a un vertice come quello di Marrakech, da cui non scaturiranno protocolli storici come a Parigi, ma dettagli essenziali, cioè le regole su controlli, trasparenza, finanziamenti ai paesi poveri, contributi dei privati, questioni su cui insomma è inimmaginabile poter fare a meno degli Stati Uniti. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, con i vostri messaggi e con le vostre interazioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Paolo scrive: mi aspetto un'inversione di tendenza nelle disastrose politiche di Obama, dice. Poi invece un altro ascoltatore al contrario dice: con Trump mi aspetto la terza guerra mondiale, mentre un altro messaggio dice: io sono convinto che Trump sotto la maschera sia una buona persona, mentre la faccia di plastica della Clinton emana una luce diabolica addirittura, e di solito non mi sbaglio, dice l'ascoltatore. Per carità, vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti e poi ci trasferiamo su un altro scenario. Primo incontro oggi tra Obama e Trump, parla Obama di un colloquio eccellente, ma le differenze restano, e poi salta, questo è il mistero, la photo opportunity, come si dice, la foto che fanno di solito la coppia presidenziale uscente con quella entrante. Intanto proteste in piazza in vari stati americani contro il neoeletto, e poi Wall Street apre forte ma poi rallenta, e così anche l'Europa con Milano che chiude piatta a 0,03%, e poi Mosca che ammette contatti con il team di Trump in campagna elettorale, e un consigliere del neoeletto dice: le colonie in Israele non impediscono la pace. Referendum costituzionale in Italia, respinto il ricorso del costituzionalista Onida sul quesito, dice la sentenza, non lede la libertà di voto. E poi Umberto Veronesi oggi a Milano l'omaggio alla Camera Ardente, con il figlio che ha detto non ha voluto essere curato, se n'è andato in maniera naturali. E poi si chiude il caso Calvi, è stato probabilmente omicidio secondo il GIP, ma gli elementi non fanno una prova, l'inchiesta archiviata, e però l'ipotesi di un ruolo che potrebbero aver avuto il Vaticano, la P2 e Cosa Nostra. Ora ci colleghiamo in diretta con Alberto Negri dall'Iraq, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Buonasera Alberto, lì prosegue questa vasta offensiva lanciata lo scorso 17 ottobre contro i jihadisti nella città di Mosul, considerata appunto che è roccaforte dell'ISIS in Iraq, e mentre le truppe irachene entrano a Mosul, l'UNICEF denuncia che i bambini e le famiglie che hanno già sofferto per 2 anni la fame e la paura continuano a restare intrappolati tra la linea del fronte, a essere costretti a fuggire in cerca di protezione. E poi ovviamente Alberto, come saprai, come avrai visto magari coi tuoi occhi, questo nuovo orrore targato ISIS a Mosul, ancora un'altra fossa comune in cui dentro sono stati trovati 400 cadaveri. Ma raccontaci tu che sei sul posto, Alberto. Allora, io oggi sono stato ad Hammam Ali, che è proprio a 10-12 chilometri da Mosul, dove è stata trovata nei giorni scorsi un'altra fossa comune con un centinaio di morti, ma torturati, decapitati, e tra l'altro oggi ho visto peraltro anche i cadaveri dei jihadisti dell'ISIS che sono stati uccisi in questa battaglia. Ecco, io se fossi Trump gli consiglierei di fare il periplo dell'assedio di Mosul. Io l'ho fatto, sono stato a Bashika, sono stato dentro Mosul, e attenzione, dentro Mosul è un dentro molto relativo, perché guardate che le truppe irachene sono arrivate in un quartiere di Mosul che è un quarto, un quinto della città, forse ci vorranno settimane, addirittura qualcuno dice mesi, prima di far cadere questa città. Ma se insomma si facesse il periplo di questo assedio, ecco, il nuovo presidente americano scoprirebbe quali sono le difficoltà del Medio Oriente. Qua ci sono truppe dell'esercito iracheno, truppe dei peshmerga curdi, truppe sciite delle milizie filo iraniane, addirittura gli Hezbollah iraniani e una base turca, tutto praticamente in un arco di pochi decine di chilometri. Ebbene, tutti questi protagonisti di questo assedio, comprese anche le truppe americane, sono alleati tra di loro, ma anche a volte avversari, perché hanno interessi e obiettivi differenti. Oggi è vero, ce n'è uno comune, l'ISIS, ma quando l'ISIS sarà sconfitto esploderanno tutte le contraddizioni. Trump, per esempio, vuol fare un accordo con la Russia contro il terrorismo, che comprenda magari anche Assad, ma Assad è l'alleato storico dell'Iran, che a sua volta è il nemico giurato dei sauditi e di Israele. Basti dire questo per dire qual è la complessità della situazione in Medio Oriente. Ecco, se Trump facesse il periplo di Mosul se ne renderebbe conto. E secondo te a quel punto che cosa dovrebbe fare Alberto, dopo aver fatto questo periplo, essersi reso conto di questa situazione estremamente complessa, intricata, con tutti contro tutti, alleati di questi però contro quegli altri? Un nuovo presidente degli Stati Uniti che direzione dovrebbe prendere? Dovrebbe prendere una direzione finalmente onesta. Lo dico con grande dispiacere, anche perché forse Trump non è il candidato ideale di tutti noi, o forse non lo può sembrare. Ma se prenderà un'attitudine onesta comincerà a capire che per sbrogliare il groviglio medio orientale, beh, insomma, ci vuole molto tempo, molta pazienza e molta anche determinazione. Perché non si può, per esempio, concedere delle cose ad Israele e poi pensare di essere alleati di qualcun altro, concedere una cosa alla Russia e poi pensare di utilizzarla o di manovrarla. Questo purtroppo non è così che avviene. Per esempio la sua concorrente, la signora Clinton, ha fatto 2 errori esiziali. Aveva pensato di buttare giù Bashar Assad con la famosa teoria del leading from behind, guidiamo da dietro, facciamo in modo che siano gli altri a combattere contro Assad, e Assad non è caduto. Ha fatto la guerra in Libia buttando giù Gheddafi e poi la Libia è cambiata nell'anarchia. Insomma, gli errori degli altri possono insegnarci qualcosa. Se Trump impara dagli errori dei suoi predecessori, ecco, forse può fare qualcosa di buono. Glielo auguriamo naturalmente, non solo per Trump stesso, per gli Stati Uniti e per quei luoghi così martoriati. Grazie Alberto Negri, grazie dall'Iraq. Ciao Alberto. Grazie a voi. Ciao e buona continuazione. Alberto, naturalmente in uno scenario molto complesso e in uno scenario in cui dovrà muoversi appunto almeno lì dalla Casa Bianca anche Trump. A proposito di Trump, sta uscendo una sintesi del suo programma dei primi 100 giorni, appunto l'abolizione dell'Obamacare, della sanità, della riforma sanitaria di Obama. Trump si è impegnato a lavorare con il Congresso per abolirla rapidamente e sostituirla con un sistema che restituisce, dice, agli stati lo storico ruolo di regolare le assicurazioni sanitarie. È chiaro che la riforma di Obama, dice, non ha avuto successo, si legge sul sito della Transition Team, del suo team di transizione. L'obiettivo di Trump è creare un sistema che promuova la scelta, la qualità e prezzi accessibili per le assicurazioni e il sistema sanitario. Poi la rivoluzione del fisco, il piano di Trump prevede una riduzione delle imposte sulle persone fisiche, un netto taglio alle imprese portando l'aliquota dal 35% al 15%, poi un aumento delle detrazioni per famiglie e aziende, detrazioni che verrebbero quadruplicate. Poi, stretta sull'immigrazione, Trump pensa a un piano di 10 punti per risanare il sistema dell'immigrazione e proteggere la comunità. Fra questi, tra virgolette, tolleranza zero per gli stranieri criminali, la costruzione del muro, quello dovrebbe essere col Messico, e assicurarsi che i rimpatri forzati siano rispettati dai paesi di origine. E su questo credo che possiamo lasciarci, per poi riaggiornarci brevemente alle 22.